Tizio! Vabbè, Cipollino! Che Cipollino, sì! E allora, che mi dici? Che mi dici? Piove? Speriamo che ne varia l'aria tutta canta, però! Esagerato, dai, sei cattivo! Ma così andi a ciocca, invece così non esci nulla! Vabbè! Vabbè, c'è ragione! Io vado a funghi! Sì! Dell'uscio! Vabbè, sempre funghi sono tu! Sempre funghi sono. Hai saputo che è morto, so. Tonino Cano, ieri. Tonino Cano? No, non l'ho saputo. Ieri sera mi ha chiamato Giorgio Rubi. Ieri sera è morto. Oh, vede cosa, è infarto. No, io l'ho visto un mese fa, ma l'ho visto brutto. Ma mai già tutto quanto mangiato. E parato, tutto il pane è parato. Ma quello che abitava al monte? Sì, quello che è in cosa, in pensione. Già compreso che sei di Zenni. Che ci vivia, ma non se ne rendeva conto come gira. Giusto. Il medico gli aveva detto di non bere più, che se no se ne era andato. Me la poi delle cose se ne è andato. Io lo vedevo giù alla Feroce, che si doveva giocare a carte a Bigardino, ma tutto l'uomo che l'ho visto, guarda, sinceramente, se non mi toccava lui io non avevo neanche riconosciuto, figurati. Era sempre di una maniera, il coso, era sempre, la sembra pediva. Vabbè, poverino, vai. Quanti anni era l'intenzione? 5 anni? 4, 5 anni? Non di più? Non lo so, forse 5 anni. Era andato 2 anni prima di me. Allora siamo 5 anni, grazie almeno, dai. Vabbè, purtroppo siamo in passaggio, so. Ma uno che è di passaggio. Però quando si lo zecca, invece di durare di più te la rimanco. Ha ragione, lui sta cercata, se l'ha cercata, invece di evitare ha aumentato. Come altra gente. Come altra gente, anche un altro, stamattina se non mi sbaglio c'è un funerale e anche quello sta cercata. Non so vuoi fare, ma. Ma chi non l'hai sentito, no? No, era un ascolto. Era un ascolto, pensavo che entrava invece, No, non si stavo fare. È nascosto. Eccoti qua, buonasera. Buonasera a tutte e due. Vieni a scucciarmi, avanti. Buonasera signor Bacchisio, catta. Tu ti vai di piranno. Io sono io, piccolino e non mi vedo. Piccolino non mi vedo, catta grande veande. Lui è come Calimero, tu, è come Calimero, piccolo e nero. Ma non è piccolo, è nero lui. E allora sei bianco, avanti di Bacchisio. No, nero, super nero, super nero. Africa. Io sono nato in Senegal. Allora sei gadarana. Capito, io sono senegalese. Sei Luda. Allora sei gadarana, sì, avanti do. Cosa vuoi fare? Cosa gli vuoi fare, boh? Non so cose belle, non so. Ma ho fatto una baceduia, bacchi. Cosa faceva? Una mozzina ha fatto. Dici che già si è plattamo una gatta, dici che ne farà l'aria bru più. Adesso fuggiti di tutti quanti. No, anche noi in campagna, nuda quasi, non vivo al rifugio. Come ti ha fatto i noghi, che hai fuggito i garrini su Rebu? Anche qui è fitta fitta, io stavo lavorando, era tutta buona e ho visto l'aria, tutta l'aria nera, è bella, c'era la spiaggia, stavolta di gente, piena di gente. Siamo rimasti del polito e iniziato a gocciolare, ma una roba, adesso lì, leggera leggera, quasi nuda, figurati, avanti da chi? Quattro gocce in un palo ha fatto, quattro gocce. E cosa vuoi? No, sono riuscito a tirare fuori il capo, mi pare. Sei riuscito? Tirare fuori il capo. Ah, già, bene, anche l'altro. Ho tagliato. tirato il primo giro che c'era e poi è uscito. Un po' di forza ci vuole a tirarlo fuori, magari. Sì, vabbè, già servono quelli, perché già servono, che io ne ho un paio qua pieni di acqua, capito? Come deposito, là, tanto sono messo in un angolo, non mi hanno fastidio. Mi ha chiesto anche quello di vicino l'altra volta, quando l'ho trovato glielo portato, già servono. Avanti. Avanti un comodo, poi prendono poco spazio. Esatto, poi sono puliti, capito? Dove c'era solo l'acqua. Avanti, scoletto. Sì, scoletto ti mangia. Ui, da domani ne avremo la base inutile a Bruppiumi, la puzza. Certo, è passato Acquazzone, è passato tra Oristano, Olbia, è passata e tutte le zone vicino, e non che passa da Rizira a Rizira. Io ormai sto lavorando, però non piove, che io voglio lavorare, non voglio rimanere fermo in moto a dicendo che non piova, così non passa mai l'ora. Devo già voi che ti voti, io ti bucio va nulla, no? Vabbè, non fa la danza dalla come si chiama? La danza della pioggia. Vabbè, certo che c'è di vola, la ne fatta per venire la pioggia, in tutti i luoghi io sono passati con una bomba d'eva. Lo so, vabbè. Fammi andare a fuori da Gira, avanti da chi? Qualche portone, qualche bar, dunque se si può, ma come il collega tuo, la scopa la lascia fuori e lui è dentro. Lo so, più di uno ce ne batti, più di uno, e lo so che non passa mai l'ora, non passa mai l'ora quando piove, batti fuori, tu non c'è il solito e boh, non passa l'ora, invece non c'è il movimento, ti vola. L'aereo ti vola come niente, avanti tu, sei caduto, avanti da chi? Dove è andato a bere, dove è andato a bere, è così, il tempo non vola quando va fermo, si cioè, annoia e boh, invece sto facendo qualcosa, cammina anche l'orologio. Ma io dopo rimango sempre sotto movimento, se fitta fitta, se posso cammino, non mi vemo, no, cosa, tanto il mezzo rimane fermo a far truccare, io cammino a piedi intanto, dunque non ho problemi, e ce l'ho fatto, pazienza, poi c'è lunedì, martedì, già c'è il tempo, avanti Torre, dove tu hai? No, sono andato, che stavo squillando il telefono, e sono andato a prendere il telefono, ho dato a mia moglie. Ok, dai. Avanti, Bacchi, ha capito? Non passa l'ora e non va bene per me. Va bene. Una chiacchiera con uno, una chiacchiera con l'altro, si trova sempre a fare nel bar oppure il passaggio. E allora passa, capito? Lo so, ma io non sto trovacando niente e basta, sono orario, entro, faccio colazione, quell'ora e basta, poi assaggio il solito, questo non c'è nessuno, ci sono solo le catalane e i randaggi e basta, le persone serie si possono trovare dopo le 8:30, le 9, capito? E boh, avanti sto. Basta la lampada della medicina e Gaddarani. E vedo che spariscono. Sì, io devo morire il del giorno, non si che spariscono stasera, avanti batti. È così, ho capito. Domanda è domenica, dunque lavora. Non ha c'è poca roba da fare, è quasi pulito, domenica non sposta non. No, già è pulita, la giornata è già pulita, bella ordinata, io anche stamattina l'ho tenuta bella pulita, poi dopo se piove è meglio ancora, capito? Se piove non esce la gente, rimane bella pulita, non lo so. Che si te la leggendo io. Dunque, è bella ordinata fino a lunedì, avanti da chi? Che la zona qua è pulita. È uno specchio là. Anche specchiare qua nella soglia, nella via mia, è uno specchio, tanto si che sopra la bombetta. Penso c'è un personaggio meraviglioso nella zona scura qui, c'è un personaggio meraviglioso. Ma quando c'è quello anziano, il cambio, mamma mia, sapevo cosa era la pietra, ma non lo fece pulire, no, ho detto signore, vedi pulito che non è pulito. Questa la faranno quello. Ehi, ok. Quelle persone è pieno, un battito è pieno di quelle persone, c'è niente da fare, è pieno, avanti dopo. Purtroppo non ero cogliando a ciappere che sa niente. Però sono 15, sono i primi a andare in banca a tirare. Infatti. E qua poi non c'è il bonifico, con 15 incominciano a borbottare, incominciano a fare sciopero. Allora, però a travagliare non da fa. E non è travagliare, lo bagnare. Però signor Bacchi. No, nel senso in gamba, gente che lavora e pulisce, fa questo. Quando c'è il sostituto, Povalino, comincia la fonte della via, ad andare via sopra nella 407 di Montessa va. Tutto ne accoglie. Invece lì dove vedere Flian, e la sta. Volantini, la sta. Non è una potenuta a quelli neri. E a chi non mi sa controllo, da chi? Chi si doveva essere non c'è mai, gira e buh, come al solito. Invece io sono sotto controllo, io sono al centro e passa in tutti. Ma che cosa dire, non passano, possono anche mangiare in terra, capisco, dove, nella zona mia, Vabbè, se pulito non deve dire niente di nessuno, è tutto a posto. Ma qui non ci passa nessuno a controllare, prima quando c'era sole qualche volta sole ci passava. Adesso non si vede un'anima. Ma chi c'è? Che persona, la solita persona, quello della ferocia, c'è così? Perciò? Ma dai, sempre la stessa persona, quello Magolino c'è. Sempre quello lì c'è adesso, sempre la stessa persona c'è. Va dal circolo di fronte a casa al circolo dove c'è all'inizio. Fa il giro e va a finire al bar che c'è il nuovo che hanno aperto, senza fare il nome delle vie, il discorso il bar nuovo. Da Gianni non si va. E dov'è il bar nuovo, Battista? Vicino al fotografo. Ah, il mio fratello va, io ho capito. Ha capito chi è ciò? Cosa fa nomi, Dolosa? Ehi, hai compreso che è Edo. Io mi sono lamentato qua, mi sono lamentato con il sorvegliante. Ha fatto fortuna e passelli. Ma è stato che la mia non è bene, non fa nulla, che diabetico pure, figurati, adesso se ne prendo, una mattina o una sera. So che attento è Duburo, che non faceva venire il latro. Già viene il lungo, avanti da chi? Qui li sono incontrati, vuol dire. Quello vuol dire c'è santo in paradiso, se no non è stato così. È raccomandato, mondo del vano. È che non va bene, capito? Io avrei preso a casa di sera dei sorveglianti, avrei preso, sinceramente. Vuol dire, c'è un po' che spintarella ce l'ha. E quello passa e chiude l'occhio. Esattamente, sono stati tutti e due luci, avanti dopo. Infatti, bisogna trovare il sorvegliante e tirare a rete il sorvegliante. A che è tu che comanda? Il sorvegliante se ne frega altamente, bisogna trovare il gradino più alto. Ah no, sono a loro che tirano le orecchie, quando fanno la relazione, sono a loro. Dici come ti mai no che non è pulito? E allora ti rabbiamo con te. Già fanno un bello, ma chi? Fanno un bello e ti lamenti, avanti. Nessuno si prende permesso, non obbligo di fare un'osservazione. Perché l'altra volta passato i vigili e qualcuno ha detto al vigile, c'è guardi la montagna che c'è. Dice bisogna andare in comune e protestare in comune. E tu non lo vedi che è sporco. Fanno tu la protesta, no? Allora, sì, vigile la volta, per vigilare le macchine. E abbiamo fatto un bello, noi ce l'abbiamo il vigile, c'è lo storico, abbiamo il vigile in giro, non lavorano con noi per quando ci sono problemi, a me quando c'è una cosa lo chiamo, vengo e risolvo un problema, capito? Quando c'è qualcosa a loro, mi vanno e mi chiamano, non è un'altra, a quello abbiamo fatto, ma non abbiamo lamentarsi, tutto qua, non abbiamo fatto la nostra zona, hanno fatto l'uomo verde, hanno risorse, hanno fatto i controlli, e la persona non ha spostato, capito? Avanti. Allora c'è il tolle, così che facevano? Non ho capito una macchina. Ma cosa ti trattavano? Peggio mi trattavano, peggio. Quando ero baciato, era brido, quasi anni di voti, era relazione subito facevano. Allora invece si ne ha fatti niente, bisogna tirare le orecchie al sorvegliante. Ecco cos'è. Al sorvegliante, sei amico suo, sei amico del sorvegliante, non è venuto. E non va bene, Patti, non va bene. Guarda, io c'ho un sorvegliante che non posso lamentare, capi? Lui non si lamenta di me, figurati, non più è sereno, la zona mia è bella coperta, pulita e ordinata. Poi io sono una zona proprio sotto controllo, fatta di tutti, intendo tutti gli assessori, consiglieri, sindaco e così via. Dunque, per il momento io sono in quella zona, sono già 8 anni fisso, e non mi posso lamentare. Io ho detto anche stamattina qualcuno mi voleva mettere sul camion e meglio nuda, mi ha detto a fare non si tocca, lasciate lo stato bene, se no non si va mai a andare su, tutto qui, avanti da chi? E ci fa il sindaco. C'è stata la sindaca, la potete anche scopare, ma a scopare il sindaco non va bene. Non è il mio tipo, ma chi? Non è il mio tipo, avanti sto. Andiamo, catta, se lo trovo io, lunedì glielo dico io, avessi ad entrare in chissà via. Ecco, ma Marco, non passa mai il tono lì, Marco Schifo. Sì, che ci passa, l'altro giorno ci ho bisticciato con lui. E va, che non entrava mai nessuno, gatta, 2 mesi non entrava nessuno, bravo, andata, agli tu, prova a entrare dentro la piazza e poi me lo dici a vedere cosa c'è dentro. Non può essere, prova a vedere, è più di 2 mesi che non entra, giudizio. Questo non può essere. Si è via di cavallo, anche un peso. Che cosa c'è di una cosa per un'altra, boh? Prima a me in questa via passava la spazzatrice. Cosa faceva il turbino? La mucchiava ai dati, passava e la raccoglieva. Adesso anche quello ci passa più. Perché prima era raccomandato, adesso non è più raccomandato. Ci passa più, adesso non è a tempo di passare. Le cose nel piazzale dove c'è il garage, lì ci passa la grande, ci fa 5, 6 giri, 7 giri, e quella già pulisce lì. Ma la piccolina non la usano più. E lì ci passava che sta passando, anche da poco è passato un collega che abita vicino al Cisco, a Gavino. E lì ce n'era stesso Costanzo, ma non so che zona, hanno spostato un po' tutti i bacchi, hanno fatto la rivoluzione. Infatti i bacchi se passano lì, se ci sono macchine, la spazzatrice non passa. Già passava, perché la macchina passava l'altra, e la spazzatura la mettevano al centro, e lui passava e la raccoglieva. Adesso invece non ci passa né la spazzatrice, né il turbino e nulla. Ormai non passa più perché non si vede neanche il turbino, capito? Non c'è neanche l'operatore, cosa posso fare? A pure la strada da strada. Oh, non c'è la strada, ci vuole sempre l'operatore che butta fuori e lui attira. Avanti. Vicino al portone di casa c'era una pianta di erba, io c'erano 2 camion di roba, noi ne adagliavano, ma con la moda se la cogliava la roba. Lui è allergico, se fa male da chi è quello, quello che fa male, a quello che piace da Poretti. È troppo coccolato mi sembra, è molto coccolato. E a chi non ha controllato nessuno si nota. Basta fare un tanto, il numero verde lo trovi sui cartoni e vi lamentate. la metti su, la metti con la fianca, una cosa all'altra, già si muove, un flete. Io voglio essere altamente, perché se c'è la montagna, lo sta paragliando, non di venuto. Noi di fronte abbiamo il circo, tutte le sigarette, tutta la macchinosa ne ha cuore, anche di voti, di moni, allumi, tutti i miei cuori. E poi già passa lui quando mi fa comodo, quando è aperto passa, quando è chiuso si passa dritto. Perché c'è l'abbonamento, Bacchi, c'è l'abbonamento, hai capito? C'è l'abbonamento, sul cellulare c'è un sito del comune che non si paga, dove ti puoi lamentare. Ti lamenti e puoi fare foto perché la lunghezza e quello che lo legge fa intervenire veloce pure. Allergico, ha la polvere, non può fare polvere allergico. Ma una cosa stava scendere, ciao rapido. Purtroppo a quello del circolo bisogna di virus a far lampare la regia che cura. Hai compreso? Vai a farlo, vedo. Ma ti fanno insetti, tu, ti fanno insetti, meglio evitare. E infatti, meglio evitare. Purtroppo che il suburo bisogna fargli la contravvenzione e vedere che i cicchi non tenere un po' in più fuori. E che è un baratto, pieno di sabbia, mette la gente la butta nel baratto. E invece anche lui, come se fuma, butta fuori, capito? Avanti, va. Se poi tu protesti, invece di una città che poi bisogna fare lui, e poi della città ti porta una bottiglia, come se stare zitti e buono. Ma non è così, Bacchi, non è così, perché anche al Barsana stavano buttando cicche e cose, le hanno messo cose di sabbia fuori e non hanno più lampato. Ma che hanno fatto la contravenzione ai vigili? Perché adesso un vino, infatti, ci sono circoli, diciamo, che ribalto un vino, vabbè, qualcuno distinto butta in terra, ma poca roba, guarda, poca roba. Prima era un centinaio, adesso non più o meno, perché non incominciano a sciogliere i cicchi, avevo i bastonacchini, io passavo e lo lasciavo, dice, ma questo qui se vuole mangiare uno a uno, oppure se mangiare a chi sta fumando, ma se io non mi qualcosa non c'è stato nessuno, qui sono proprio nessuno, dunque metti un barattolo con un po' di sabbia, la gente si abitua a buttarlo nel barattolo, che io non penso che loro a casa sua buttano la cicca in terra, avanti do. Infatti, è così. Anche se no ti tocca bisticciare con quello lì, poi se ne mandi i vigili e vedi che tu è costretto a metterti cose di sabbia fuori perché li devi avere come ce li ha a Barsanna. Esatto, e butto dentro il sbattolino. Avanti da qui. È come la questione del divieto di sosta. Stasera sono andato in garage, mezza porta di garage è occupata da una scuola. C'era posto dove mi mettere la più avanti, no? Ho chiesto a Michele, ma mi ha detto, no, io sono droga che sta un palazzo sopra la garage. Aspettate, non c'è. Alla fine mi sono infilato lo stesso, ho fatto 3-4 manovre e ce l'ho infilata. Però rischiando di graffiare sia la macchina quella che graffiate la giusta. E per me è sempre per puntiglia, lo sanno che devo mettere, no, te la metto sempre lì da fare a rompere le palle. E tu la sai che segno lasciali? Ho il vigile, mi chiama e ci venga e la portiamo via. Ma quando lo chiama, quando arrivare loro, ce n'è già andata. Purtroppo hai andato a fare altro più così. Ma scusa, che non fa quella di Bacchi? Abita nel palazzo sopra la garage. Così metto nel piede, dice, all'ultimo piano abita. Ah, quella tipa che fa calocche. Ma è una tipa un po' potente. Non ho visto ancora in faccia, ma la voglio vedere. Perché tutte le altre la conosco, quelle signore che abitano lì, che guidano. Con tanto di gentilezza, chilometro 50-60 cm, anche un metro di gentilezza della porta. Poi invece c'è un altro, uno soltissimo, perciò una macchina un po' di strada, è alta, si tratta di graziata, se la metto proprio a filo di serranda, quando esci non vedi niente. Sono quasi appunto che lo fate, anche perché sei graziato, veramente, boh, lo fanno apposta. Ma io mi approfitto che mio nipote mi sta chiamando. Si concilia domani. Ciao, sto fatto in casa, ciao Marchisio. Salgo in casa, sentiamo domani, si concilia, va. Senta, Marchisio, lo prendi così. Aspetta, finalmente me ne va chiuso, va. Ehi, Morino, ciao, sono fissimo in casa, sentiamo domani, si concilia. Benissimo, avanti, sole. Ok, ciao Marì, ci sentiamo alle prossime, ok. Andare, riprendi Bacchì. Mi pare che è ora burubatte. Quasi arrivata, sono le 8, sono arrivate. E così. Capito? A questi giorni del polizia tornando al discorso. Ti ha regalato questo inferno. Due carrelli di legna per trattarlo bene, no? Adesso se ti serve in campagna te la prendi, si è appigliata. E tanto lui va, è prepotente. È prepotente il buon. Io me ne sono il vivo in Italia. Purtroppo, comunque sta niente, non vi voglio far nulla. Se ce ne che comanda niente, a si va. Ma che di tu sotto sotto rimoni un ciotto e gomme, a proposito intendi? No, io non sono già parito a minuti, anche a mezzanotte non me lo faccio nulla, ma staccavo già parito, questo è il mio posto volà. Oppure così, è vero, fa piacere, io devo entrarci la macchina, non devo far fadinga, e boh. E prima c'era una coppia di giovani, abitavano al secondo piano. Un giorno dopo il filo alle 5 del mattino arrivo, anche la macchina non stava andando, e sapevo chi era, anche questo di quel tipo di sopra. Quindi fa la situazione degraziato, un pigiama, dice adesso lei mi ha rotto, ha detto perché si ha rotto? Perché la mia ragazza io sto facendo l'amore, ha detto le grandi difende l'amore, fai la bru invece di muore. E tu lo potrebbe dire, di abbassava tenere la buona la macchina lontano a non ti avrei disturbato. Non ha posto più, no, non ho messo per il presidente, alla prossima volta ci trovo la macchina avanti te la faccio portare via, se no ti faccio quattro gomme a terra. E andate. Vabbè, Bacchi, dai, mi ci sentiamo, dai, magari domani, ok? Alle prossime. Ciao, Bacchi. Ciao, Tore, salutissimi, saluta la signora, buona carica, buon tutto. E ci sentiamo domani, ci concedo. E fate vedere.